riportando in piazza questo 17 novembre? Cosa state facendo? Il corteo come si sta muovendo? Dove volete andare? Quali sono i vostri obiettivi? Raccontaci un pochino la giornata. Allora, il corteo innanzitutto è molto partecipato e questo come 17 novembre a Napoli è una grande cosa, perché non si vedeva da un po' di tempo un corteo di studenti medi e universitari così partecipato. Il corteo sta sfilando per le strade del centro e come parola d'ordine c'è quella in certo qual modo di aggirare o diciamo sfilare il divieto della zona rossa imposta a Napoli, tutta quanta la zona della regione eccetera. Quindi diciamo sono questi tendenzialmente gli obiettivi. Le parole d'ordine sono quelle diciamo solite che ultimamente sentiamo, però noi la crisi non la paghiamo, contro il nuovo governo, il governo Monti, che sarà un governo che ancora di più accentuerà una politica di lacrime e sangue. In testa al corteo sono presenti i book block, che ormai in questi anni siamo abituati a vedere spesso per le strade delle nostre città, ai cortei, alle iniziative politiche, e poi ci sono tutti quanti gli altri spezzoni e le varie realtà delle scuole e delle università che stanno in un certo modo testimoniando la ferma volontà di opporsi al governo Monti, di opporsi ai tagli alla scuola e all'università e di sfidare anche i divieti imposti da tutte le amministrazioni comunali ormai in tutto quanto il paese. Insomma, la scuola Alemanno, per quanto riguarda i divieti dei cortei, sta facendo scuola anche all'amministrazione dei magistris, e quindi in un certo modo noi vogliamo, si vuole dare anche un segnale in questo senso, in questa giornata. Va bene. Senti una cosa, diciamo, voi in questo momento dove siete diretti? Allora, noi adesso siamo a Piazza Borsa e gireremo verso Via De Predis, che è sempre una zona molto del centro storico, e lì potenzialmente si verrà più o meno che strada intraprendere, in seguito anche per capire pure insomma dov'è effettivamente che scatterà il divieto da parte della questura e della prefettura di attraversamento del corteo. Quindi adesso insomma è anche un poco in ballo alla fantasia di questo corteo, di cosa si vuole inventare per cercare di superare, di lottare e di contrastare le politiche di divieti di cortei e di attraversamento di quelle che sono le cosiddette zone rosse, dove poi si trovano i palazzi decisionali del potere. Va bene. Senti, allora, per il momento, se non hai nient'altro da aggiungere, possiamo concludere la telefonata. No, vabbè, dopodiché, naturalmente, appena succede qualche cosa, chiamate, se aggiorniamoci pure dopo per sentire come va. Noi stiamo sentendo un po' tutta Italia. Io dico soltanto che... Allora, siamo in diretta con un compagno da Torino. Sembra che il corteo che andava verso Banca Italia sia stato caricato. Se ci racconti un pochino cosa sta succedendo, cosa voleva fare il corteo e come si è intromessa la polizia, quello che è successo, vai. Allora, il corteo, diciamo, il corteo che come obiettivo si è trovato proprio di passare a certo il palazzo, insomma, simbolo del potere, sia finanziario che anche quello economico, ad esempio Unione Industriali, la regione eccetera. Ovviamente tutti questi luoghi sono stati interdetti dalla questura. L'obiettivo finale era quello di andare a fare davanti a Banca Italia una campana, cioè questo era l'obiettivo, di fermarsi come si scende in parecchie parti del mondo e fare una campana qua a Torino per aprire uno spazio pubblico di discussione, insomma, su quello che sono la situazione economica italiana e politica. Appunto la questura invece ha subito posto i divieti, ha impedito, bloccando le varie vie d'accesso ai luoghi sensibili, con camionette, un grandissimo dispiegamento di forze dell'ordine. C'è stata un'azioncina da parte di un gruppo di precari che era davanti all'assessorato del lavoro e della casa, prendono striscione per più reddito e contro la crisi, e poi però invece come ci siamo avvicinati alla zona vicino alla Banca Italia, le traverse da Piazza Solferino, che è una piazza del centro di Torino, che danno verso la via che porta verso Banca Italia, gli studenti hanno provato in due punti a forzare i blocchi, la polizia ha subito risposto con due cariche, una appena finita. Il corteo continua a rimanere compatto, non si sta ovviamente sciogliendo e sta continuando nelle vie del centro per puntare di nuovo a provare ad arrivare di nuovo di verso Banca Italia, quindi ci saranno altri tentativi di deviazione verso Banca Italia. C'è stato un fermo, in questo momento abbiamo la conferma di un fermo di un manifestante che è avvenuto durante la prima carica. adesso non so dirvi maggiori informazioni se ci fossero stati situazioni di questo tipo anche durante la seconda carica, perché è proprio avvenuta da pochissimo. Devo dire, la polizia ha caricato, il corteo però appunto è rimasto compatto, quindi chi non ha provato a deviare lateralmente il corteo è stato respinto, però poi il corteo non è stato spezzato, quindi si sta proseguendo con in testa gli studenti medi e universitari a seguire precari e Cuba e Cobat, quindi i sindacati di base, che comunque stanno appoggiando di fatto con la loro partecipazione a questa manifestazione anche la scelta di puntare diritto di crearsi uno spazio di discussione sotto Banca Italia, la civiltà. Va bene, senti, vabbè, noi stiamo sentendo un po' tutta l'Italia, ci senti? Sì, ma ti sento. Sì, noi stiamo sentendo un po' tutta Italia, ci sembra che la risposta sia sempre la stessa, visto che da Roma a Roma non ci sono ancora state cariche, però ci sono state già ordinanze del sindaco per vietare le manifestazioni, restrizioni generali, abbiamo visto a Milano ci sono state delle cariche, a Palermo ci sono state delle cariche, c'è uno studente ferito, ci sembra che la risposta sia un po' la stessa in tutta Italia. Quello che è stata un po' la debolezza del movimento studentesco sia l'anno scorso che poi abbiamo visto anche quest'anno un pochino dopo il 15 ottobre è che poi dopo le scadenze importanti come può essere la giornata di oggi non ci stanno dei proseguo, diciamo voi dopo la giornata di oggi, indipendentemente dal fatto se riuscirete a fare l'accampata o meno, come vorreste continuare le lotte? Ma un fraintendimento, io sono un redattore di Blackout, quindi sono qua come osservatore, ovviamente interessatissimo, ma non sono uno studente. Quello che però mi sembra evidente è che rispetto agli altri anni la volontà proprio di creare questo spazio in città, aperto, fuori dall'università, che possa durare nel tempo, quindi il discorso poi delle accampate, sia la volontà di non ridurre questa giornata a un mero evento così, invece si senta la necessità proprio di aprire questo spazio di discussione e soprattutto di aprirlo non solo agli universitari e agli studenti, ma alla città tutta. Quindi questo mi sembra nelle intenzioni quello che vogliono portare avanti gli studenti universitari, gli studenti medici soprattutto, che sono poi la componente più significativa numericamente rispetto a oggi. È chiaro che bisognerà capire intanto se si riuscirà effettivamente ad arrivare a Banca Italia e come poi proseguirà questa mobilitazione. Già questo è un passaggio all'interno di un percorso, perché in realtà questa manifestazione è stata praticamente indetta oltre che all'interno degli istituti, degli studenti medici, cioè delle scuole medie e superiori, all'interno di assemblee, di ateneo, all'università, anche venerdì scorso all'interno di un appuntamento che è nato spontaneamente in piazza Castello, nella piazza principale di Torino, sotto insomma questa sigla di Occupy Torino, e di fatto mi sembra che appunto questo comunque adesso mi muore, mi stanno chiedendo di dire, scusate un attimo. Sì, sì. Comunque dentro un percorso, quindi mi sembra che ci sia la volontà di portare avanti questo, penso che sarà comunque nei prossimi mesi, e comunque penso che ci saranno diverse ragioni per portare avanti questa lotta. Tra l'altro, se andiamo a guardare anche un po' la composizione del nuovo governo, possiamo dire forse c'è stato anche un po' uno spostamento da Milano a Torino, no? come interessi rappresentati con forza. Intanto adesso c'è un'altra carica, vedo. C'è stato un altro tentativo su via Bertola da parte degli studenti di andare verso Banca Italia, è stato respinto, però il quartiere in realtà rimane in via Bertola, tiene, c'è anche il furgone, quindi mi sembra che comunque ci sia niente. Dicevo, Torino probabilmente sarà un po' anche il luogo in cui avranno stati anche molti degli interessi che sono rappresentati all'interno di questo governo. Ovviamente il mondo Fiat e Marchionne, la logica di Marchionne è stata pure rivendicata da Monti, insomma, come esempio da seguire, come una delle riforme che sono state fatte, tanto quanto la Gelmini, la riforma Gelmini. e oltre a questo ovviamente la presenza di personaggi con più o meno espliciti legami con Banca San Paolo, insomma, evidentemente probabilmente renderanno anche Torino uno dei luoghi in cui bisognerà rappresentare che tipo di interessi sono questi che sono al governo oggi, appunto. Va bene, senti, sentiamo che lì la situazione insomma è ancora un pochino tesa. Naturalmente ci sentiamo più avanti. Per ora, se non hai nient'altro da aggiungere, ci lasciamo. Ok, vi saluto, grazie. Dai, ciao. Un abbraccio, ciao ciao.